Eccoci alla fuga del gatto. Ciao a tutti. Oggi domenica 10 dicembre le 18 più o meno. E però in realtà quella che state per ascoltare è una replica. Sì, perché è una replica della puntata che sarebbe dovuta andare in onda originariamente il 26 novembre, ma per problemi tecnici del Wombat andrà in onda oggi, perché tanto non è stata messa in podcast, quindi poi verrà messa in replica in podcast. Sì, abbiamo avuto una serie di sfighe concatenate. Prima non ci andava in replica, poi non ci andava in diretta, poi non ci andava manco in podcast, niente. Una tragedia. Quindi secondo noi abbiamo fatto due calcoli, abbiamo deciso che l'hanno ascoltata in tre, esatto. E quindi due siamo noi, due probabilmente noi, la mamma della Mari. E quindi ora ve la ribeccate, anche perché la prima puntata di un ciclo dedicato a Shakespeare ci sembrava brutto che la prima non l'avesse ascoltata nessuno, e quindi ve la riproponiamo. Sì, Shakespeare in musica e buon ascolto. Shakespeare in love. Magari. Eccoci a una nuova puntata della fuga del gatto. E oggi microfoni altissimi. Chi c'era prima di noi in regia ha lasciato dei microfoni super pompati, quindi sentirete la nostra voce in proprio fino alla Cina, fino all'Eurasia, fino all'infinito ed oltre. Per me va bene, perché di solito sembro in una caverna, quindi se è super alto direi perfetto. Allora per me va bene, insomma siete sfori, ma io sì, infatti mi abbasso, io ne traggo vantaggio. Sì, domenica, oggi, allora aspetta, guardiamo il calendario e la Wombat Agenda. Domenica 26 novembre e oggi, allora, iniziamo per bene. Sì. Vi dobbiamo dire che ingenuamente così, un po' naif siamo delle ragazze, sì, un po' così. Noi siamo due povere ingenuotte e abbiamo detto, ma senti, ma perché non facciamo una puntata della nostra bella trasmissione su Shakespeare e la musica, no? Credevi? Era una cazzatina, a parte certo. Non ci ha mai pensato nessuno, effettivamente è un tema veramente innovativo. Però di rottura proprio. Sì, vabbè. Sì, siamo avanguardia noi. Siamo andati a guardare su Google sì, Shakespeare, nostro amico Google, e abbiamo scoperchiato sto vaso di Pandora e tombino. Finita, cioè ci sono un miliardo di cose proprio ieri, oggi e domani, dalle musiche dei contemporanei di Shakespeare, su Shakespeare, alle musiche per scena, quindi per proprio gli spettacoli, a quelle ispirate ai balletti, ispirati alle tragedie, alle commedie, i leader, cioè tutto un archivio di leader, di Eder, scusate, ho sbagliato ma la che parola. Poi è strano perché era un minore comunque. Sì, strano. Insomma, ci siamo stupite così noi nella nostra ingegneria che ci fosse questa quantità di sterminata di opere dedicate appunto a Shakespeare. Piaceva. E allora abbiamo deciso che si inaugura un ciclo, cioè noi abbiamo i cicli così. No, abbiamo detto va bene, ok, si fa una puntata, no. Si fa due puntate, non basta. Tre, allora faremo un ciclo, beccatevi questo ciclo e la fuga di Shakespeare, si chiamerà così questo ciclo. Che è Shakespeare che fugge da noi. Da noi, esatto. E quindi il ciclo La fuga di Shakespeare, puntata 001, si inaugura oggi e questa è solo la punta dell'iceberg. Solo l'inizio. Sappiaselo. Per cui, ecco, non so Mari se vuoi intanto lanciare. Allora, noi essenzialmente abbiamo iniziato a dipanare questa matassa incasinatissima. E abbiamo deciso, ci siamo un po' spartite la faccenda, e quindi io ovviamente mi sono appioppata subito, auto accollata le cose più vecchie e antiche, dato la mia indole barocca e tardo rinascimentale, quindi mi sono appioppata Parcel. Eh beh sì, Parcel, perché appunto l'accollo è proprio subito, è quello, si parte subito con lui, insomma, che comunque base. Che comunque oggi toccheremo anche di Parcel un pezzetto. Cioè guarderemo, probabilmente partiamo da The Fairy Queen, quindi l'opera poi in realtà più famosa, la più famosa tra l'altro di Parcel in generale. Comunque la, riguardo a quello che Parcel ha scritto per e influenzato da Shakespeare, è sicuramente la cosa più famosa, però non è assolutamente l'unica, anzi c'è la prima di una lunga serie, una delle prime. C'è di tutto, c'è di tutto, e quindi anche qui partiamo da questo, ma poi prossimamente aggiungeremo altri pezzetti anche riguardo a Parcel. Te invece ti sei appioppata tutto il resto, accollata altro. Sì, perché appunto ho scoperto così, proprio facendo delle ricerche, già me lo immaginavo, però non mi immaginavo sinceramente, non sapevo, alcune sono famose, alcune meno, però insomma, che l'influenza di Shakespeare sulla musica è cominciata in realtà appunto quasi subito, cioè quasi a lui contemporanea, non appena si rappresentarono i suoi lavori a Londra. Per cui dal 600 ai giorni nostri ci ritroviamo con esempi in tutti in realtà i generi musicali, più o meno, in particolare ovviamente quando si parla di musica classica, nelle sue varie forme, che reagiscono al suo teatro e ai suoi versi. E così diciamo, quello che Shakespeare ha dato, insomma, Shakespeare, o chi per lui, perché poi ci sono tutte le varie teorie e qui vabbè abbiamo un capitolo perché non ci stiamo volendo entrare, perché se no non se ne esce, chiamiamolo lui, prendiamolo esempio come lui, perché anche lui è comunque lei. Lui sì, perché come vi dicevo, no, io non credo, però io due punti sono nella vita, uno è Shakespeare e uno è Mozart, e quindi da questi non mi muovo, sono un po' è così. E Wagner scusa, vabbè, ma l'amore è un altro discorso, cioè, l'amore è un'altra parentesi. Ah, ok. È così. E sì, e quindi il trittico, appunto, magico triangolo, Wagner, Mozart, Shakespeare. E Shakespeare, appunto, come vi dicevo, ha fornito talmente spunti, talmente tanti, così, tante idee, tante provocazioni anche con i suoi personaggi, che così ci piace pensare che gli artisti abbiano risposto a questo, e quindi abbiano contribuito poi, no, a creare un immaginario anche musicale, non solo visivo e teatrale. Le cose vanno molto di pari passo, perché ovviamente spesso sia le opere di Shakespeare, quando venivano messi in atto, e via via nel tempo sono accompagnate da parti musicali, tra l'altro, quindi nel proprio previsto nella, così nello, spesso nel lavoro, e quindi si prestavano già. Beh, tra l'altro a me viene da dire così en passant, in maniera piuttosto grezza, che comunque sia Shakespeare è un classico nel senso proprio come i greci e i latini, cioè nel senso che effettivamente è un qualcosa, le sue opere che possono essere viste, applicate e affondate in qualsiasi epoca, per cui non è un caso se Shakespeare è arrivato fino a noi praticamente intatto, sì, perché infatti è un po' universale, e quindi vabbè, è chiaro che anche la musica, qualsiasi musica di qualsiasi periodo storico, vede in Shakespeare una fonte di ispirazione, ma non come un qualcosa di lontano, ma qualcosa anche di poi molto vicino a sé, probabilmente al proprio linguaggio. Soprattutto nei drammi politici, mi ricordo, proprio fece un corso all'università di letteratura inglese e trattava proprio il dramma politico in Shakespeare, quindi l'Enrico IV, l'Enrico II, Riccardo III, e era di un'attualità incredibile, perché ovviamente ci sono questi temi universali e fuori dal tempo, sulla natura umana. Che cosa rende Shakespeare nostro contemporaneo? Infatti ho trovato questo saggio di questa professoressa inglese che dice proprio che Shakespeare cerca di indagare le grandi questioni della sua epoca, no? Allora il teatro non si trovava, diciamo, al centro della scena culturale, ma ai margini. Il suo era un teatro radicale, tra virgolette, perché poneva degli interrogativi, per cui su questioni politiche, per esempio, si sfruttava il palcoscenico come spazio di dibattito. Ed è così che oggi reagiamo al teatro di Shakespeare, perché lui trattava appunto questioni di, che sono tuttora rilevanti, come tutti i grandi geni, pone delle questioni che sono poi che appunto che non si perdono nel tempo, ma che rimangono: l'identità, l'etnia, la razza, il potere, la mancanza, o insomma le questioni legate al potere, la monarchia, lo Stato, il sentimento. Quindi è chiaro, l'identità sessuale, anche perché sì. No. Per cui è chiaro che è talmente una grande fonte che sarebbe proprio anche un po' insomma banalizzarla, parlarne così ora al volo, sì. Riduttivo, che chiaramente non poteva non influenzare la musica. Fin dal XII secolo, quindi, dicevamo, citando la tua amata Fairy Queen di Henry Purcell, che è una resa del sogno di una notte di mezz'estate attraverso danza, musica, arte e recitativi. Poi ci sono grandissime opere di Verdi, per dire, se si parla di opera italiana, ma ora poi le citeremo via via. Comunque, in generale, appunto, ecco, si arriva quasi fino al, cioè, si arriva al XX secolo, perché si arriva a Britten con una versione del Sogno di Notte e Mezz'estate, a Berio addirittura. Beh sì, e mi sento di aggiungere, se ci vogliamo attenere alla musica classica cosiddetta, perché sennò anche nella musica non classica si apre un altro mondo. Ora si stava parlando soltanto di musica classica, sennò veramente ciaone. E ve lo fate da solo, esatto, ecco la ricerca, certo, guardatevela da soli. Quindi, ecco, gli Shakespeare musicali sono un po' in dialogo costante tra loro, scriveva appunto questa fonte che ho trovato, e al contempo con i drammi shakespeariani, perché appunto gli artisti si sono ispirati anche a vicenda, cioè prendendo da Shakespeare, poi si sono un po' risposti a vicenda. Appunto Britten ha fatto la versione del Sogno di Notte di Mezz'estate contemporanea, perché Mendelssohn aveva già fatto la versione, e che sentiremo oggi, del Sogno di Notte di Mezz'estate, e via via. Quindi si rispondono tra di loro e appunto si dedicano così al bardo. Per cui, per citarne un po', ne ho trovate tantissime, oltre a Purcell, che abbiamo già citato. Ci sono dei madrigali addirittura prima di Purcell, quindi roba ancora prima. Sì, e lo stesso Purcell in realtà appunto al di là delle opere ha scritto, esatto, cose ancora più. E poi vabbè, ho già citato Mendelssohn, proviamo a citare Honegger, Prelude pour la Tempeste, la tempesta di Shakespeare del 1920, non vado in ordine orologico, vado un po' sparsa, no. Malipiero per esempio, sono due opere di Malipiero, Giulio Cesare del 36 e Antonio e Cleopatra del 38. C'è Britten appunto con la Midsummer Night Dream del 60. C'è Stravinsky con tre Songs from William Shakespeare del 1953, quindi Shostakovich, avevamo già citato nella puntata di Shostakovich, musiche per il film Amleto del 64 e Re Lear del 70, e sei romanzi su testi di Shakespeare, Raleigh e Barnes. Walton per le musiche di scena di As You Like It, Come vi piace del 36, diverse musiche per i film shakespeariani di Laurence Olivier, Enrico IV, Riccardo III, poi raggruppati nelle Shakespeare Suite con gli interventi recitati, bellissimo, deve essere questo a trovarlo. Ci sono le musiche di Bear per il film Macbeth di Wells del 48. C'è un Castelnuovo tedesco, scrisse una serie di overture sinfoniche dedicate alle opere di Shakespeare e una collezione di liriche raggruppate dal titolo Shakespeare Song dal 21 al 25. Queste ve le beccate, ve lo dico. Prokofiev, il classico balletto da cui sentiremo un estratto, Romeo e Giulietta, famosissimo del 1938, Blacher o Blacherk di Si voglia sempre Romeo e Giulietta, opera da camera del 48. Ma ve ne potrei citare altre, ve ne dico un altro paio. C'è Barber, l'Antonio e Cleopatra del 77, quindi si arriva proprio a, siamo tutto sul Novecento in realtà. Ora poi ci sono anche cose anche prima. C'è questa Castiglioni, Sinfonia in Do, con una parte cantata sul testo di Shakespeare, ma anche Debussy per esempio, per andare un po' più indietro, Musique pour le Rois Lear, quindi la musica per il Re Lear. C'è Fauré, Shylock, le musiche di scene per Shylock. C'è una versione di Edward McDowell, Amleto e Ofelia, poema sinfonico, non so di che periodo sia perché non trovo la data. E il sogno della notte mezz'estate di Mendelssohn, già citato, e che reciteremo. Quindi insomma ce n'è tanti, ma molti di più di questi che ho citato io, e ora ve ne ho citati veramente solo alcuni. E quindi insomma c'è quello di Berio, che non vi ho, ora non lo ritrovo, non mi ricordo l'anno, ma è sempre su Dialoghi del Re, sempre tratto da Re Lear. Insomma, ecco, tantissima roba e tantissima anche nel tardo Novecento. Anche perché ora io vorrei fare la parte un po' più, come si dice, un po' più blasfema, però effettivamente, da un lato certamente abbiamo detto Shakespeare, i temi universali, il classicismo, bla bla bla. C'è anche da dire che Shakespeare è facile, cioè sì, nel senso, con Shakespeare vinci facile, nel senso, sì, se hai un problema, ispirazione, sì, o che ne so, c'hai un teatro che non sta andando tanto bene, ci ficchi un'opera di Shakespeare, insomma, te la risolleva. Quindi un po' tutti hanno poi lo vedremo, anche Purcell stesso con Fairy Queen, in realtà poi meno male che l'ha fatto perché poi è un capolavoro. Mari non dormiva la notte poi. Insomma, direi che averne di via di fuga così, però effettivamente insomma è stata una soluzione facile a un problema complesso. Tra i casi, tra l'altro, ora che mi vengono anche in mente, c'è un Falstaff che è dalle Allegre Comare di Windsor, che è musicato da Salieri, il nostro amato numero due della storia, Salieri, e da Verdi, Le Allegre Comare di Windsor da Nicolai, e poi c'è un Romeo e Giulietta di Bellini e di Goudunot, pensa se, e la Sinfonia Drammatica di Berlioz è sempre ispirata a Shakespeare, il poema sinfonico di Tchaikovsky, sempre ispirato a Romeo e Giulietta, il già citato balletto di Prokofiev. C'è un poema sinfonico di Liszt ispirato a Shakespeare, e persino un'opera, te l'avevo detto, di Mercadante. Quindi ecco, c'è addirittura una teoria che dice che una sinfonia di Beethoven, mi sembra ora ve lo dico, insomma, la sinfonia La Tempesta di Beethoven sarebbe a quanto pare proprio ispirata alla tempesta, lui non ha mai confermato. Dalla pratica, appunto. Non ha mai confermato. Abbiamo però, sembra che ci siano delle prove invece che Mozart, negli ultimi anni della sua vita, intendesse musicare sempre la Tempesta di Shakespeare. E lì però, come quando uno poi, niente, capito cosa ci siamo persi? No, ecco, voglio infatti fare sempre là. Però, e voleva, perché come dicevi te, chiaramente è un tema abbastanza, dice, che facciamo, vabbè, che bello però Mozart che musica la Tempesta, immagino com'era. Comunque quella di Mendelssohn è incredibile, ve lo dico, poi la riconoscete perché l'avete sentita di sicuro. Molto buffo, su internet ho trovato questo CD di overture di epoca vittoriana, di cui alcune sono dedicate a Shakespeare, magari mettiamo l'immagine. E ecco, diciamo questo, che è stato ha avuto un reprise Shakespeare durante il romanticismo, e inevitabilmente penso sia abbastanza facile da capire. Leggevo appunto che c'è stata una ripresa nel romanticismo, probabilmente perché era ripreso anche a teatro molto, e quindi avendo questo momento di reprise al teatro, poi anche i musicisti romantici, diciamo, e infatti tra quelli che vi ho citato ce ne sono molti, tra l'altro è molto e poi nel Novecento. Sì, ma tra l'altro appunto è anche interessante, ora al di là delle varie interpretazioni che hanno fatto i vari compositori, Shakespeare si presta anche moltissimo da un punto di vista sicuramente musicale, perché la lingua con cui è scritto già di per se stessa è molto musicale e spinosa per certi versi, e incidentata, ma sicuramente ritmica, e quindi insomma si presta a una complessità che, se uno la sa cogliere, vengono fuori delle cose bellissime. Ma anche la vocalità, per esempio, io che amo questo argomento, al di là degli strumenti, mi viene in mente proprio come l'identità sessuale a cui tu prima facevi accenno, in Shakespeare assolutamente indagata in più di un'occasione, e poi si è stata ripresa anche dalle vocalità, spesso non marcatamente, cioè con un genere non marcatamente definito, tant'è che controtenori donne che facevano le parti degli uomini, uomini che facevano le parti delle donne, bambini con voci bianche, cioè sono stati usati molti escamotage che hanno reso il tutto molto più furbetto e insomma hanno colto lo spirito. Chiaro, è una cosa molto giusta, hai detto, e oltretutto pensiamo che Shakespeare nasce già così, perché come ben sapete non so, forse tutti non lo sanno, ma insomma, si sa che le parti maschili erano le parti femminili erano interpretate da donne nel teatro elisabettiano, perché era vietato alle donne recitare. E quindi già nasce buffa questa cosa, perché lui ha scritto alcune tra le più belle, tra le più sensibili, tra le più profonde ritratti di donna, se si pensa all'epoca in cui era, insomma. E però erano recitate in origine da uomini. Quindi sì. Ecco, già questo crea un grosso, no? C'ha grossa influenza poi in tutto il teatro poi che ne segue e sul suo. Poi ovviamente questo si è sbloccato fortunatamente negli anni, nei secoli purtroppo non ci è voluto parecchio, però prima le donne potessero recitare Shakespeare. Però è buffo, no? Quello che dicevi te, sì. Nasce già da lì, cioè c'era già un senso di proprio di alterità, di scambio dovuto, forzato, ovviamente non era scelto, però era così, cioè recitavano uomini che recitavano donne. Insomma, anche questo sarebbe interessante. Folletti, creature che non avevano sesso, sì, comunque erano androgini. In quelle più pastorali, appunto, come Il Sogno della Notte di Mezz'estate, esatto. Ma anche altre, insomma. Sì, dove poi appunto si sperimentava anche un certo grado di libertà in qualche modo, perché non eri vincolato dalle convenzioni strettissime. Beh, che sì, invece ti questo in generale il teatro, ovviamente. Sì. E ok, sì, dicevamo, ascoltiamo un pezzo, sì, intanto. Possiamo ascoltare un pezzo. Io direi che si può partire con il citato Prokofiev, ma sì, che appunto scrisse questo bellissimo balletto. Io l'ho anche visto una volta mettere in scena, molto belle le musiche per balletto di Romeo e Giulietta. Ovviamente non lo diamo tutto, in realtà non dura tanto, come tutti i balletti, in realtà non è molto lungo, però insomma dura un po', più di mezz'ora, per cui vi facciamo sentire un estratto che è però una delle parti più famose e che è stata usatissima, tra l'altro io quando lo sento ho detto, ah ma era questa, figurati, e che è La danza dei cavalieri, che è un estratto proprio, probabilmente ora non mi ricordo il momento esatto, ma è il momento in cui i Capuleti e i Montecchi, uno dei momenti in cui si affrontano, ed è bellissimo. Ve lo facciamo sentire come primo ascolto. Bene, beccatevelo. Thank you. ecco. Ecco, sì, molto bello. E come avrete sentito, ecco, di sicuro non era la prima volta che la sentivate, perché è molto famosa, c'è questo tema, no? Molto, molto enfatico, molto, molto bello. Un po' perché, vabbè, è per balletto, quindi chiaramente serve a sostenere. Se deve ballare. È chiaro. E un po' perché proprio, vabbè, poi i russi sono così, quelli sono drammatici. E qui vorrei fare una piccola dedica a Margherita, perché nel suo bellissimo spettacolo di Burattini usa questo pezzo per una scena, è molto bello. E possiamo citare i Burattini, sì, chiamiamoli certo. Con loro i nome. Fratelli Applausi, lo spettacolo di Fratelli Applausi, che è un bellissimo spettacolo di teatro di figura per bambini e non, in cui a un certo punto uno dei personaggi si trova sperduto in una barchetta sui marosi che lo sballottano di qua e di là, e c'è questa musica in sottofondo molto bella, quindi questo no, perché volevo fare della pubblicità, sì, delle, sì, cose belle. Fratelli Applausi, un bellissimo spettacolo. E quindi dicevamo prima Mendelssohn, sì, Mendelssohn fa una di quelle che poi, un po' come Purcell, buffo perché Shakespeare è poi quello per cui le opere dedicate a Shakespeare sono anche spesso le più famose dei, degli autori, no? E anche per... chissà come mai. È così. È uguale appunto anche in Mendelssohn, Il sogno della notte di mezz'estate è una delle sue opere... celeberrime, insomma, quelle che anche questa sentirete un estratto, però la riconoscete, insomma, perché è particolarmente bella, è particolarmente usata, è stata usata tante volte. Sono in realtà le musiche di scena per l'omonima commedia, appunto, shakespeariana, composta nel 1843, su commissione del re di Prussia, e qui ci risiamo, della serie di Prussia, del re di Prussia Federico Guglielmo IV, e catalogate come l'opera 64 del compositore. Inglobano anche una composizione del 1826, quando Mendelssohn era solo 17enne, tra l'altro, scusa. Proprio. No, vabbè. Ciao. Ciao. L'ouverture da concerto opera 21, sempre inclusa in questa, in quest'opera maggiore, sempre ispirata dalla commedia shakespeariana. Ecco, però senza farvi tutta la storia, che è anche interessante, particolarmente bella, perché è proprio, insomma, rende, restituisce questo clima, questo mito, perché poi sì, è una commedia, però c'ha tutte queste parti molto, molto misteriose, no? Poi anche lì lo scambio delle coppie, i famosi quattro personaggi si addormentano, Puck che gli mette sugli occhi il siero, ognuno si innamora dell'altro, ed è anche fondamentalmente la commedia delle forze della natura, perché due poli, appunto Oberon e Titania, sono litigati e che hanno sconvolto tutto il ciclo della natura perché sono separati. E qui vorrei fare una nota autobiografica, perché io alle superiori ho fatto Il sogno della notte di mezz'estate. No, l'hai fatto? E facevo Titania, ovviamente. No, quale altra parte? C'erano quattro Titania, io facevo la parte, quella estiva. Come quattro? Sì, perché era diviso in quattro parti, c'era troppa gente che lo voleva fare. Ma no! Sì, era molto bella, era una versione tenere con scene deputate col pubblico che girava per il parco di Porta Romana, che io facevo l'istituto d'arte, bellissimo. E io facevo Titania e c'avevo tutta una roba in testa, mi dovevo alzare dal terreno e recitare questa parte alzandomi, non mi chiedevo, ero giovane, ce l'ho fatta. La scala di faccia? Sì, sì, no. Ah, non è una cosa che ti ha creato traumi? No, ha creato traumi al pubblico, forse, io ero attrezzata. E me la ricordo ancora questo pezzo, tra l'altro recitavo proprio questo pezzo in cui si dice che Oberon e Titania sono separati, inizia così, quindi i due principi della natura sono separati e tutta la natura è sconvolta da questo. Ci sono tantissimi piani di lettura nel sogno notte di mezz'estate, infiniti, quello della natura, quello del mondo della magia, il piano appunto i due innamorati che fuggono e gli innamorati di loro che gli vanno dietro, quindi l'amore rifiutato, insomma, ecco, è un'opera veramente complessa, per quanto si definisca commedia, in realtà è complessissima. C'è il teatro nel teatro, perché ci sono i quattro artigiani che si riuniscono nel bosco, il cui più famoso è Bottom, ovviamente, perché è quello che viene tramutato in asino. C'è la commedia proprio, c'è la Titania che si innamora di questo, la testa d'asino, immagina, la regina delle fate si innamora di uno con la testa d'asino. No, vabbè. C'è tutta la filastrocca bellissima degli elfi che la buonanotte alla fata, insomma, ne sono state fatte milioni di versioni, sia cinematografiche sia Woody Allen ha fatto un film ispirato su commedia sexy in una notte di mezz'estate, bellissimo, una versione carina con Michelle Pfeiffer, ah sì, mi ricordo, alla fine degli anni 90, girata in Toscana, tutta molto toscana. Ah sì, girata, sì, in Toscana, molto bellina, con Kevin Kline che fa Bottom, a metà del Novecento. Ci sono un milione di versioni, veramente, però ecco, questa di Mendelssohn rimane particolarmente famosa, le musiche per chissà com'era bella poi l'opera vista al teatro, non lo sapremo mai. E noi ascoltiamo l'ouverture, ma è divisa in molte parti: scherzo, marcia degli elfi, coro degli elfi, intermezzo, notturno, marcia nuziale, che è la marcia di Mendelssohn. Perché quasi mi scordavo di dire che Mendelssohn è rimasto famoso per la marcia dei, certo, la famosa marcia dei, che si sente a tutti i matrimoni, che, sono due, che voi l'avrete sentito. Una è Lohengrin di Wagner, ma quella più famosa è quella di Mendelssohn. Ah, sono due le marce per i matrimoni. Ora io sono stonatissima, lo dovresti fare te. Questa è Mendelssohn. Questa è, e l'altra com'è, è molto famosa anche l'altra, è quella è Lohengrin. Io non vado a un matrimonio, penso, da 20 anni. Poi matrimonio che andiamo noi, queste cose non ci sono. No. Quella lì credo sia Lohengrin. Sì, matrimonio dove andiamo noi c'è manciaia di risoni, sassi dentro, teste dei fricchettoni, insulti, bestemmie. Esatto. Vabbè. Per cui di base buffo, perché lui rimane famoso, la marcia di Mendelssohn è la marcia, si sente in tutti i film, in tutti, soprattutto nei matrimoni italiani, perché usava molto in Italia, perché allora in Europa usano quella di Lohengrin, a volte usano Bach, ma in generale non mi chiedere perché sono così fermata, non lo so. No, infatti non però vogliamo indagare. Non lo so, compulsioni. Però ecco, lui tutti si ricordano di Menzel, di Menzel, scusami, che è morto questi giorni, grande tra l'altro, scusate, grande lapsus. Povero Mendelssohn. Tutti si ricordano di Mendelssohn per la marcia nuziale, o meglio, tutti si ricordano la marcia nuziale, che in realtà è parte di quest'opera qui, di quest'opera qui. Chiaramente, come si sente nell'opera, non è scrausa come si sente in chiesa, fatta con l'organo, ma è molto più bella. Così come il mio amato Wagner, quella di la marcia di Lohengrin è molto più bella di come si sente della vecchina che vecchina suona forte. È che vogliamo fare. Però tutti si dicono: ah, questa è la marcia del matrimonio. E poi ta ta ta ta ta ta ta, quella lì, è quella lì. Va bene. E cioè, come rovinare per sempre una musica. Esatto, esatto. Comunque è una parte, la marcia. E poi c'è il prologo, marcia funebre, insomma, e altre parti. Noi ci sentiamo l'ouverture, che contiene già i temi, come spesso, come abbiamo, che se ve lo ricordate, abbiamo fatto la puntata sulle ouverture, che contiene già molti dei temi principali che ritorneranno poi durante l'opera, è bellissima. E quindi opera 61, qui in una versione della London Symphony Orchestra, diretta da Abbado, non so di che anno però, e ci ascoltiamo appunto l'ouverture della Sogno notte di mezz'estate di Mendelssohn. Eccola qua. Thank you. Ecco, eccoci di nuovo. Ora è arrivato il momento di Parcel, il mio amico sì, Harry. Ci tocca. Harry Parcel. Allora, in realtà, no, veramente, su Harry Parcel io avrei da aprire un tombino e parlarne per ore. Ognuno sa le sue. Sì, ce l'ho perché a me è veramente un mio mostro sacro. Però rimando questa narrazione a un'altra puntata perché sennò veramente sarebbe troppo lunga, vi tedierei. Quindi... io oggi vorrei parlarvi soltanto veramente in maniera veloce e così proprio telegrafica di The Fairy Queen, che è poi il pezzo l'opera da cui trarremo l'ultimo ascolto e che ci ha dato lo spunto oggi. Poi perché ovviamente è la prima a cui uno pensa quando pensa a Shakespeare. Sì, ma tra l'altro veramente ce ne sarebbe mille anche soltanto di Parcel, perché poi insomma non era contemporaneo, ma siamo lì. Lo vedremo. In realtà The Fairy Queen è stata più o meno scritta 100 anni dopo la probabile scrittura di Un sogno di una notte di mezz'estate di Shakespeare. Quindi insomma, vabbè, sì, certo, un po' di anni erano passati, ma non certo come le opere successive. E prima di andare con Parcel volevo fare un'altra dedica. Oggi è così, oggi sono tipo oggi veramente una tristezza. Ed ecco a voi. Perché appunto la mia amica Chiara di Londra, che ci ascolta, è tipo la nostra più grande fan, tra l'altro. Ma, lei scusate, si ascolta tutti i podcast, poveretta, va al lavoro, fa le scenografie, si ascolta tutti i nostri podcast e poi mi fa pure le recensioni, quindi grande Chiara. No, perché vorrei dire che noi abbiamo degli ascoltatori a Londra, in Brasile. Noi ci abbiamo a New York. Cioè non è che siamo la trasmissione che ci ha preceduto sull'OI, che voglio dire, da dove l'ascoltano, da... Ah, non lo so, Sesto. Voglio sapere, da dei buchi della coscienza umana probabilmente. Io, probabilmente qui non ci ascolta nessuno, però diciamo siamo internazionali. Nemo profeta in patria. Esatto, per cui la voglio dedicare a Chiara perché è una grande amante del teatro, una grande amante di cioè anche del teatro shakespeariano, e quindi gliela dedichiamo perché grazie, perché è veramente una ascoltatrice fedele e attenta. Mi fa anche notare quando c'avevi la gomma quel giorno, ma scavi con la gomma, t'ho sentito, grande. Non diciamo le cazzate. No, quindi ecco, meno male ci sei te. Allora, The Fairy Queen. Fairy Queen, appunto, come già si evince dal titolo, la regina delle fate, è un po' Stavo diversa. Parlassi di me, guarda. Ma infatti, The Fairy... Perché voi non mi avete visto, ma c'ho le ali, sai, io sto qui con le alucce, così. Capisco. Si ci assomigli un po', una ragazza un po'. Non capisco perché non ti hanno fatto fare la regina delle fate. Tutta da sola. Ma cioè, perché ero la regina delle fate, però hanno diviso la parte in quattro. E a me queste cose... Cioè, a me non è che mi era piaciuta tanto questa cosa, la parte era divisa in quattro. Anche secondo me. Dire. Poi non mi aveva andato manco la primavera, andavo l'estate, me l'ho dovuta mettere una specie di sole in testa, no, vabbè, mezza di finta, cioè non è stato bello. Pensa che a me mi hanno fatto fare la recita sugli dei Grecia, a me mi è toccato fare la luna perché sono bianca di carnagione. Cioè, voglio dire. Avevano dovuto truccare, perché poi mi avevano, capito, mi hanno irretito perché mi disse fai Titania, e vai, faccio Titania, allora sono la prima. No, una delle quattro, sì, vabbè, allora però, queste cose, sai, vincono tutti, tristezza, cioè. No, noi vogliamo premiare il merito. È chiaro, cioè, certo. Io ero la più brava, tra l'altro. Ma scusate, infatti le foto poi di queste cose sono video, tutte comunque, tremende. Io no, video. Però le foto dove ci sono io depressissima, ho proprio la bocca agli angoli all'ingiù. Mamma, vienimi a vedere al teatro, faccio l'albero, capito? Così. Faccio uno dei tanti alberi. Se faccio la regina delle fate, ce ne altre quattro, no, tristezza. Vabbè. Dopo queste lamentazioni sulla nostra... infanzia, sì, quindi dicevamo The Fairy Queen, come già si vince dal titolo, in realtà la regina delle fate è un pochino, cioè diciamo che Parcel cambia un po' il baricentro dell'opera, perché Shakespeare con Midsummer Night's Dream, ovvero la Sogno di una notte di mezz'estate, non è che proprio incentrasse tutto sulla regina delle fate. Sì, certo, ovviamente era una grande protagonista, ma insomma c'era tutto uno scenario, tutta una molteplicità di personaggi. Tra l'altro, una delle cose che cambiano nella rappresentazione di Parcel, proprio nell'opera di Parcel, è che Shakespeare ha elaborato questa opera a partire da un matrimonio. Perché appunto si trattava di un probabilmente appunto intorno al 1569 venne scritto Il sogno di una notte di mezz'estate, e doveva essere presentata proprio per la prima volta durante un matrimonio. Quindi da lì l'escamotage, come al tempo si usava a fare moltissimo, di ambientare le prime parti dell'opera e poi tutto il successivo sviluppo proprio alle nozze di, questa volta non gli sposi veri probabilmente, ma in questo caso di Teseo e Ippolita, certo, che erano le loro nozze, ora la regina delle Amazzoni, sì, e però quindi... loro sono due personaggi minori, cioè non si vedono poi. No, era un po' un incipit che dava un po' la scusa all'opera, che però sì, era interessante, perché poi l'escamotage appunto usato moltissimo anche successivamente, però in quell'epoca tantissimo. La festa delle nozze dà il contesto a tutti, sì, anche perché agli accadimenti. Tu stesso che stai guardando l'opera, sei a una festa di nozze, probabilmente a un banchetto, certo, a un certo punto c'è questa rappresentazione e quindi tu sei dentro l'opera già di per sé, e quindi c'è un appunto l'opera dentro l'opera, come dicevi anche tu prima. E quindi in realtà Parzel riprende questo incipit, però in realtà toglie completamente il centro, non si chiamano più Ippolita e Teseo i due personaggi, ma in realtà diventano, Teseo ad esempio diventa un generico duca, ecco, e il suo ruolo è completamente ridotto assolutamente. E in realtà The Fairy Queen sposta appunto il baricentro, diventa la cosa importante, diventa il centro della questione, diventa la regina delle fate e molteplici altri personaggi che diventano più centrali. E in realtà poi il manoscritto, allora, la rappresentazione è stata fatta, cioè la prima di Parsel probabilmente è stata fatta nel 1692, il 2 maggio del 1692 al Queen's Theatre, ma in realtà poi vedremo il manoscritto, cioè poi vedremo, adesso lo vediamo perché non c'ho tutta la sera, lo sentiremo, il primo manoscritto con la partitura dell'opera è andata perduta, come peraltro gran parte del lavoro di Parsel, purtroppo, tra cui alcune cose bellissime, meravigliose, dedicate proprio a Shakespeare, come l'Orfeo Britannico ad esempio mi viene in mente, andate perse, che ne sono state ritrovati solo brandelli, per cui abbiamo solo alcuni assaggi tra l'altro meravigliosi di un'opera che purtroppo non avremo mai. Qui andò persa la partitura originale del 1692, ne fu ritrovata una nel XX secolo, ora nel 1900, che però in realtà era un rifacimento dell'anno dopo, salvato sostanzialmente dalle fiamme, cioè dalle fiamme del tempo, insomma, è tutto, che però era un rifacimento, era una ricopiatura, dove fra l'altro per esigenze un po' di mercato, diciamo, di teatro dell'epoca, erano state aggiunte delle parti, era stato modificato qualcosa, quindi diciamo che la partitura originaria non ce l'abbiamo e non l'avremo mai. In realtà però, insomma, diciamo che la partitura comunque di un anno dopo più o meno è abbastanza fedele. E niente, quello che ci arriva è questo, ed è abbastanza interessante poi andare a vedere le varie soluzioni che Parsel applica a quest'opera, ma veramente sarebbe lunghissima. Ma tanto faremo un monografico poi su Parsel. Sì, sì. Quest'opera in particolare, come si diceva prima, me l'ero scordata, che appunto c'è il momento del teatro nel teatro, è proprio esplicito, perché i quattro artigiani della città, tra cui Bottom, mettono in scena un'opera che è un'opera classica dell'antica Grecia, vanno a fare le prove con l'Arianna, vanno a fare le prove nel bosco per poi metterla in scena il giorno dopo delle nozze di Ippolito, del duca. Quindi i quattro artigiani vanno nel bosco fatato a provare la scena dell'opera sono scarsissimi, ovviamente, e tutti, cioè, tutti gli elfi, appunto, tutto il mondo del bosco li prende in giro, finché poi fanno così schifo e appunto lui viene trasformato in asino per punizione, perché sono orribili. Non era la Arianna, no, era un'opera classica, lui dice, cioè, il muro, Troilo e Cressida, mi sembra, comunque, insomma, vabbè. E quindi quello è proprio un esempio modernista, cioè uno dei punti più alti di Shakespeare, nella struttura in abisso del teatro, nel teatro, è pazzesco. Anche per quello l'opera è stata così, perché c'ha tutte queste parti appunto buffe. Sì, poi dicevamo prima sulle voci, sicuramente contro i tenori avevano qui un ruolo importantissimo, nonché i bambini erano gli elfetti, ce n'erano tantissimi. Ma appunto scelti per la loro voce androgina e un po' quasi aliena, suonava strana. Ed è interessante perché effettivamente Purcell era lui stesso un controtenore, quindi aveva partecipato alla messa in opera di altre opere prima della sua. Lui era molto giovane, in realtà morì quando aveva 35 anni, e quest'opera è di circa, mi sembra, 3 anni prima della morte, quindi insomma, poretto, la vita sua è stata abbastanza breve, non è che... ma pochi anni prima aveva partecipato lui per primo alla messa in opera di alcune rappresentazioni con lui che cantava come controtenore, quindi insomma un compositore che teneva la voce in grande considerazione e che usava le voci androgine, maschili però anche femminili, cioè un po' ambigue, in grande considerazione. Quindi ora ci ascoltiamo un estratto, in realtà The Fairy Queen veramente sarebbe da ascoltare interamente, magari una volta ci faremo una soap opera. Faremo la soap opera della Fairy Queen. Chissà. Veniamo tutti vestiti, appunto, ma mettiamo anche le foto, perché insomma a quel punto diventa certo. Insomma, una cosa complicata. Bellissimo. E noi ci ascoltiamo invece una delle arie più famose, veramente eseguite da chiunque, un po' un pezzo di bravura, ed è veramente bellissima. O Let Me Weep, tratta appunto da The Fairy Queen, nella versione, questa volta molto spesso viene fatta da controtenori, e sentirete, se vi incuriosisce, anche la versione di Jarosky, molto bella, però noi ci ascoltiamo invece la versione di un soprano, di Anne, ma in realtà no, credo che lei sia un mezzo soprano, di Anne Hallenberg, bellissima secondo me, e quindi chiudiamo con questo. Vi lasciamo con quest'ultimo ascolto e spero avremo un po' incuriositi, ma in realtà diciamo che prendetela come un antipasto, perché sì, poi è un assaggio, ci lasceremo andare, ne faremo molte altre, ai voi, e fateci sapere anche cosa ne pensate sui nostri fantastici super social del Wombat, che non abbiamo detto effettivamente, che oggi non abbiamo detto. Io intanto vi saluto e la Mari vi dice tutti i contatti, lei che li sa, è una persona meglio. Ci sentiamo la prossima settimana, ciao. Sì. A tutti, wombat.noblogs.org, e la mail è ovviamente come sempre posta wombat@insiberia.net. Ciao ciao.